Non solo 19 cinquine per 19 nastri votati dai giornalisti cinematografici, nastri che verranno annunciati il 14 a Taormina. Ci sono dei premi speciali già decisi, tutti a grandi nomi del nostro cinema. Il nastro d'argento dell'anno 2008 va a Carlo Verdone, Claudia Gerini e i produttori De Laurentiis per Grande, Grosso e Verdone e il suo successo al